essere iniziato. Allora, la prima diceva di, chiedeva di parlare un po' sulla creatività e la sua origine. Poi, per esempio, il contemplare un albero molto bello, quando è una fonte di gioia e quando diventa attaccamento. La musica e la pratica del Dhamma vanno bene insieme. E poi nello svolgere un lavoro manuale, artigianale, impagliare sedie, come si può rendere questa attività meditativa? Puoi fare esempi pratici su come e dove concentrarsi? Più o meno mi sembra che sia tutto un po' sullo stesso tema. There's another one. There's another one on the top, which is. Did I skip one? Yeah, there's one about the use of creativity. Yes, the first one. I said that. Yeah. Okay. The mind is by nature creative, no? Quindi la mente per sua natura è creativa. I mean, every time you have a conversation, it's creative. Ogni volta che uno fa una conversazione, questa è creatività. So it really, it just depends what the purpose of the creation is. Dipende da qual è lo scopo della creazione. Mm. So, I mean, we can go from one end of pornographic art. Possiamo andare da un estremo di arte pornografica. And then we have social art. Poi c'è l'arte sociale. Art for art's sake. L'arte per l'arte. No? But you have art to express spiritual truths, no? Ma c'è anche l'arte che esprime delle verità spirituali. Mm. And so these are our cathedrals, our church music, things like that. Abbiamo le cattedrali, abbiamo la musica sacra, i dipinti. And also films, you know, films. You might have seen that one from Japan, Winter, Summer, Spring, Autumn. Mm-hmm. Did you see that? Ci sono dei film anche spirituali, come yeah. quello giapponese, no? Autunno, inverno, estate, primavera. Korea. Oh, it's Korea. Yeah. Ah, excuse me. Ah, Korea. Okay. Well, there's no problem. It's another way of expressing truths, and often a more fuller way, rather than just an intellectual approach. È un modo per esprimere una verità, a volte è più completa che non solo una via intellettuale. For instance, the Buddha often explains something intellectually, and then he says, for people who understand in a different way, he gives a metaphor. Per esempio, il Buddha quando insegnava, prima dava degli insegnamenti così a livello per la comprensione intellettuale, però poi usava delle metafore per chi poteva capire le cose in maniera più pratica. Mm. If you look at Bhikkhu Bodhi's translation, the Middle Length Sayings. Se guardate la traduzione di Bhikkhu Bodhi sui discorsi di media lunghezza. At the end he actually lists all the metaphors that the Buddha uses. There's so many. Alla fine elenca tutte le metafore usate dal Buddha, sono tantissime. Mm. For instance, he talks about grasping, you know, this becoming of an eye, like fire. Per esempio parla di questo voler afferrare, questo io che diviene, no? Questa creazione dell'io, usa la metafora del fuoco. Mm. He compares that to Nibbana, which is the fire released. E questo lo confronta invece con il Nibbana, che è il fuoco che... Release in the sense of put out? Released. No, il fuoco che like si from prison. Si libera. We can't understand that unless we understand the physics of the time. Questa è una cosa che ci è difficile capire se non capiamo la fisica di quei tempi. Okay. These four elements, earth, fire, water and air, were understood to be all around us. Questi quattro elementi, quindi la terra, il fuoco, l'aria e l'acqua, sono tutto intorno a noi. Temperature is everywhere. La temperatura è ovunque. Now, when I put two sticks together and I rub them together, I'm attracting this heat towards this rubbing of the sticks. Quindi quando io sfrego due bastoncini insieme, quello che sto facendo è di attirare questo calore nei bastoncini. Ah, and then when the fire goes out, that's not the end of the fire, it simply goes back into its rested state. E quindi quando il fuoco si spegne non è la fine del fuoco, semplicemente torna al suo stato potenziale. Just there. Il suo stato iniziale, che è semplicemente lì. No. So he uses this as an example of consciousness which becomes entrapped by its delusions on something, see, like a fire holding it. E quindi è il suo modo per spiegare la coscienza, che è come se fosse intrappolata in qualcosa, così come il fuoco che viene intrappolato dai bastoncini. And when consciousness becomes wise, it liberates itself. E quando la coscienza diventa saggia, si libera. So no problem with creativity. And you know, when it comes to creating something beautiful, the first thing, of course, is it draws your attention. You know, it's an exercise of attention. Quando si crea qualcosa di bello, intanto attira la nostra attenzione. And of course, it's developing beauty in the heart, isn't it? E sta sviluppando la bellezza nel cuore. No? It's developing the beautiful heart. Si sviluppa un cuore bello. Which is got to be a good thing, no? I don't see anybody shaking. I don't see you can disagree. I don't mind. You can say rubbish. You mentioned something in one of the talks of creativity is sort of like recycled, that it's all already been, that's why I understood it, it's already been seen before, or it's just was I talking about this, the karma, the idea of the past and the present? No, there it was more in the sense of the creativity comes about because certain things come together from past histories, but they all meet at a certain place, certain time, and therefore you always get something new. You can never say what's going to happen in the next moment. That was more to do with, I suppose, the way the world works, rather than creativity as such. Un altro aspetto della creatività di cui parlavo in un discorso precedente è come se ci siano delle condizioni dal passato che a un certo punto si incontrano con altre condizioni nel presente e quindi creano qualcosa di irripetibile, ma questo ha più che vedere con il modo in cui funziona la vita. Cioè non si riesce a prevedere come saranno le cose da un momento all'altro e quindi è continuamente la creazione. But here we're talking about an individual being creative, actually, you know, creating something new. So it always comes back to your intention. Qui però si parla di un individuo che crea qualcosa e quindi alla fine tutto si riconduce all'intenzione. Is that it? Music is the same. So church music, you know, when you're listening to music, ask yourself, what is the mental state that you want to develop? Quando ascoltate la musica, chiedetevi sempre qual è lo stato mentale che voglio sviluppare. So listening to you know, church music, Renaissance church music, whatever, like, it creates a certain mental state, doesn't it? Quindi ascoltare la musica di chiesa, per esempio rinascimentale, questo crea un certo stato mentale, no? So that's what you're doing internally, you're creating a mental state, that's what you're doing. È quello che state facendo dentro di voi, state creando uno stato mentale. So it always again comes back to what is the purpose of you listening to this music? Why are you doing it? Quindi tutto torna al discorso del cosa, per qual è il motivo per cui ascolto questa musica? Cosa sto creando? It's the same with television, films, anything. Lo stesso vale per la televisione, film, qualsiasi cosa. Remember, when you pay attention to something, it's an act of intention, and therefore it's conditioning. Ricordate che quando prestate attenzione a qualcosa è un atto intenzionale e quindi state creando un condizionamento. If you contemplate something beautiful like a tree, when does this become attachment? Well, that's quite difficult to know. You can only really know that you've got an attachment when you go back and the tree's been chopped down. È un attaccamento quando ritornate, vedete che l'albero, per esempio, l'hanno buttato giù. Again, it's a case of why are you admiring this tree? Is it a pure enjoyment of the tree? Quindi di nuovo una questione di atteggiamento. Perché state guardando questo albero? È un apprezzamento dell'albero? So remember this little trick of saying thank you, goodbye, and you leave. Questo trucco di dire grazie e arrivederci. No, addio. Addio. Sì, finished. We're gone. And then you remind yourself this, you know, like the tree will be different when I come back, it won't be the same, etc., etc. Ricordate che l'albero non sarà più lo stesso quando ritorno. But that distinction between enjoyment and it slowly, you know, moving into indulgence is very difficult, that's all. È molto difficile capire quando un apprezzamento comincia a diventare indulgere in qualcosa. È molto difficile. The only thing, supposing you get in the habit of every day you go out and you admire this tree. Immaginate di avere l'abitudine tutte le mattine di uscire e ammirare questo albero. Okay. How are you going to find out whether you're attached or not? Com'è che scoprirete se siete attaccati o meno a quell'albero? So one day you say, no, I'm not going to look at the tree. Un giorno vi dite, no, io non lo guardo quest'albero. And just see what the reaction is. E guardate qual è la vostra reazione. There's one little thing that I often put to people. I'm sure I've said it in past retreats. C'è una cosa che suggerisco alle persone, l'ho già detto nei ritiri passati. If you have a favorite program on television or a series. Avete un programma preferito in televisione? Or series, o you una know, serie. Yeah, serie. So, vedere l'episodio successivo. So get yourself a nice cup of tea, coffee with biscuits. Prendete una bella tazza di tè o caffè con i biscotti. Sit in front of the TV. Sedete davanti alla televisione. And don't turn it on. E non accendete. Just feel the agony. Provate l'agonia. Yeah. Especially the World Cup. The World Cup. Soprattutto per la Coppa del Mondo. That's a difficult one. So, it's a test. You see, you test. So, the other one also. There's a little sign, but yes. It's about the question. I read that in order to generate feelings of joy, which are positive, the contemplation of beauty in one way, and to look for, let's say, beautiful landscapes, yes, or to identify a beautiful picture which inspires joy, is part of the path, the same. That is the question, really. Yeah. So, because it could be a form of constant escape. Yeah. To look again and again at the same wonderful picture, yeah, instead of getting on with your life or whatever, yeah, or music also, yeah, you know, it can become a strong attachment. How do you decide? It's not easy. Yeah. Do you want to say that in Italian? Sì, quindi è ha letto che è consigliato anche nei testi sviluppare la gioia, che è comunque è uno stato salutare della mente, circondandosi per esempio di cose belle, osservando un bel paesaggio o avere un'immagine a cui si ritorna proprio per suscitare questo stato di gioia nella mente. Però potrebbe anche rappresentare una fuga, il fatto che uno ritorni a questa immagine per non, come dire, vedere cose più spiacevoli. Quindi dov'è il confine? Quando è che si capisce se è un attaccamento, cioè se è una via di fuga, oppure è un modo per stimolare stati positivi? Well, I think that's just it. It's you don't do it for a while and see how you're reacting. E quindi è proprio questo il discorso. Uno può provare a non farlo per un po' e vedere come reagisce. It's the same actually with people who make meditation practice in the morning very, very regular. E la stessa cosa vale per le persone che fanno molto regolarmente la pratica al mattino. When they miss one, they feel guilty. E quando ne saltano una, si sentono in colpa. See? So that tells them, you know, they're getting attached to sitting on a bench or something. E quindi questo gli dice qualcosa, cioè forse stanno creando un attaccamento per sedersi tutte le mattine in meditazione. So long as there's a self, there'll be attachment. Finché c'è un sé, ci sarà l'attaccamento. Yeah. It's just being aware of it, you know, when it's actually beginning to corrupt what we are trying to develop. E quindi quando c'è l'attaccamento che si comincia in qualche modo a inquinare quello che stiamo cercando di sviluppare. And one way is always just to stop what you're doing. Un modo è quello semplicemente di fermarsi e smettere di fare quello che si sta facendo. Yeah. Any comments? Quite difficult in a couple with your wife. Yes. Sì. È difficile in coppia con una moglie. It's put it this way. It's a case of in any relationship, whatever it is, whether it's between a husband or wife, partners, parents and children, colleagues. You know something is going wrong when the negativity arises. E questo vale per tutte le relazioni tra marito e moglie, o compagni, colleghi, madre e figlio. Cioè si capisce che c'è qualcosa che non va nella relazione quando sorge della negatività. So getting irritated with the person. Uno si irrita con la persona. Disappointed, bored. Deluso, annoiato. You know, anytime something negative comes up, you see, greediness. Quando c'è un po' di avidità, ogni volta che viene fuori qualcosa di envy, jealousy, negativo, l'invidia, la gelosia. So those are little pointers that says, you know, the wrong relationship has been. There's something wrong with the relationship that you are developing. Sono degli indicatori che ti dicono che c'è qualcosa che non va nella relazione che stai sviluppando. And then there's the other side of dependency. E poi c'è l'altra parte, l'altro lato, diciamo, l'altra faccia della medaglia, che è quella della dipendenza. Sort of an emotional dependency. Spesso una dipendenza emotiva. Which often the other person feels as an imprisonment, an imposition. A volte l'altra persona lo sente un po' come un'imposizione, come essere in prigione. Yeah. Like, you know, in a partnership where the other person doesn't want the other to go away even for a night. Ci sono quei rapporti dove una persona non vuole che l'altra vada via neanche per una sola notte. Things like that. Overprotectiveness. Iperprotettivi. So usually, if we are reflective about our response and the way we behave towards somebody, we should now, with our awareness through the practice, see, oh, this is unwholesome, so something is wrong here, and then, you know, to reflect upon it. Con la pratica acquisiamo questa, siamo più riflessivi rispetto a quello che sorge nella relazione. Allora vediamo quando c'è qualcosa che non va, quando si sta sviluppando qualcosa di non salutare, e quindi possiamo agire di conseguenza. I think in a relationship which is you know, either a marriage or a partnership, there's often a confusion between a romantic love and a real sustainable love. In una relazione credo che ci sia sempre una differenza da fare tra un rapporto romantico e uno sostenibile. Yeah, a more deeper connection. Sì, quando c'è una connessione più profonda, quindi di sostegno reciproco. So I mean, when two people meet at the level of that sort of relationship, you know, the first touch is usually very delightful. Eh? E quando due persone si incontrano, di solito il primo contatto è molto bello, meraviglioso. And then after a time there's a bit of pressure. E dopo un po' comincia a esserci un po' di pressione. And at this point either you ping and they whoa, terrible. you know, it's like I don't know how I could have liked that person. But if there's an acceptance and a deeper connection, then you get this business, you see, then you get a closer connection. Allora, se c'è una comprensione, allora la relazione è diversa, c'è un'interconnessione. Just get a little bit deeper, you see, but even here you get the resistance, eh? Diventa un pochino più profonda, però anche qui c'è un po' di resistenza. So every time this resistance comes, there's always a possibility of well, you know. Ogni volta che c'è questa tensione, questa pressione, potrebbe esserci il momento in cui si dice basta. But eventually there's that total commitment to each other. Però prima o poi nasce questo totale impegno l'uno verso l'altro. And that's really a connection between two people who wish their lives to evolve together. E quello è il caso di due persone che desiderano che le proprie vite evolvano insieme. And in such a relationship, when an occasion like an anniversary or something happens, you know, the romance comes up, and then the eroticism, well, that's just a bit of icing on the cake. Quindi in questo caso, quando ci sono dei particolari momenti come un anniversario o qualche occasione speciale, allora può sorgere di nuovo il romanticismo, anche l'erotismo, ma questo è proprio come fosse solo la glassa sulla torta. In italiano si direbbe la ciliegina sulla torta. I've abandoned all that. Io ho abbandonato questo. I was another failure. You was one on love. Could I just say, by the way, that is a spiritual path. You know, it doesn't. Remember, the path that I've chosen as a monk is a institutional path of renunciation. Però ricordate che quello è comunque un sentiero spirituale di pratica. Quello che ho scelto io di fare il monaco è un sentiero istituzionale di pratica spirituale. Yeah. Now, a relationship is also an institution. Anche una relazione è un'istituzione. Yeah, an institution is governed by its ideal and by the rules and regulations that allow you to reach this success, this completion. Quindi qualsiasi istituzione è governata da un ideale, poi delle regole che ti permettono di raggiungere questo ideale, quindi questo successo, diciamo, questo obiettivo. And so a relationship is always about you know, that the process of giving. So we've already noted that when you give something it's an act of renunciation. Quindi una relazione c'è sempre questo atto del donare. E abbiamo già visto che il donare è in stretta relazione proprio con la rinuncia. So remember the arahats who were living peacefully together. Ricordate questi arahat che vivevano pacificamente insieme. What if I put aside what I want to do and do what the others want to do? Quando, rispondendo al Buddha, hanno detto: io metto da parte quello che io voglio fare per fare quello che vogliono fare gli altri. Cioè metto da parte le mie aspettative per andare incontro a quelle degli altri. If both are saying that, that's good news. If only one, bad news. Quindi se entrambe le persone ovviamente lo dicono, questa è una buona notizia. Se invece lo dice una persona sola, non funziona. It's not as great as you defrock, is it? Yeah, well, it is in some countries it is. Yes, if you leave the sangha. Yeah, just say. Is it a disgrace? Ah, se è considerato una... disgrazia. No, non è una disgrazia. No, no. È considerato umiliante, diciamo, se uno, un monaco, si lascia l'abito. Yes, in countries like Sri Lanka, it would be considered, how would you say, it's like in the old days when priests would leave the priesthood, you know. In alcuni luoghi come lo Sri Lanka sarebbe considerato insomma, una cosa non adeguata, così come un prete quando lascia l'abito. It would be considered a defeat, that's how they think of it. Sarebbe considerato una sconfitta. So, quel termine giusto. Yeah. In other words, a person has tried to live the holy life, but his virtues aren't up to it. He lacks the necessary virtues. That's how they would see. Una persona ha deciso di condurre o di perseguire la vita santa, però poi le sue virtù non erano all'altezza, non gliel'hanno permesso. Riuscito a portarlo avanti. Sì. There are quite a few on Metta. Maybe I could put them together. Yeah, sure. Ce ne sono parecchi sulla Metta. No, ce n'era un'ultima. Speaking of creativity, you know, there was the one on making a chair, for example. Can that be considered a practice? Create an object. I think absolutely, yes. Remember that it all comes down to our intention. Quindi tutto si riconduce alla nostra intenzione. And whatever we do, either with our minds or with our speech or with our hands, develops a mental state. Qualunque cosa facciamo con la parola, con la mente o con le mani, quindi una cosa pratica, questo sviluppa uno stato mentale. So, for instance, making a chair or an object like that, you know, demands a certain commitment to excellence. Quindi fare una sedia o impagliare una sedia o qualunque cosa di tipo artigianale, questo implica un mirare all'eccellenza. So now that becomes an attitude, working always towards excellence. Questo sviluppa un'attitudine, voler lavorare sempre verso l'eccellenza. So whatever that person does, they will do it excellently. Sì. Qualunque cosa quella persona faccia, cercherà di farla al meglio, come per raggiungere l'eccellenza. Sì. Ok. Sono in Metta. Nella Metta, a un certo punto, dice di rivolgersi ad una persona neutra. A me è difficile individuarla, ma chi è la persona neutra? È una persona che mi è indifferente? Se sì, una persona può essere veramente indifferente? So he's asking, or she is asking, that the neutral person in Metta. This is really just a way of extending that goodwill to everybody, including people whom we don't even have a real relationship with. Quindi si tratta di estendere questo stato mentale della Metta, questa benevolenza, a tutte le persone, quindi anche quelle con cui non abbiamo una vera e propria relazione. If for instance you go to a supermarket or something and you see this cashier. Per esempio andate al supermercato e c'è una cassiera. In your metta you bring her to mind and you offer the same quality of goodwill. E quindi durante la pratica di metta la portate alla mente e le offrite la stessa qualità di benevolenza. So you're universalizing your metta. Quindi è un modo di universalizzare la vostra metta. To universalize something means it doesn't become attached to this or that type of person. Universalizzare vuol dire che non diventa attaccata a questo o quel tipo di persona. And again, don't confuse metta, which is goodwill towards somebody, with the fact that because of our personality, we'll always like somebody more than somebody else. Non confondete la metta, che è uno stato di benevolenza verso un'altra persona, col fatto che siccome noi abbiamo una personalità, ci sarà una persona che ci piace di più di un'altra. That's on the surface level of personality meets personality. Quello è un livello superficiale che riguarda una personalità che incontra un'altra personalità. Yeah. But at the human level, you see, at the Buddha level, all people are the same. Ma a livello umano, a livello del Buddha, tutte le persone sono uguali. And therefore, depending on a person's situation, it excites from us either, you know, the appropriate response. Quindi a seconda della situazione della persona che abbiamo davanti, questo in qualche modo ci stimolerà la giusta risposta. Yeah. So love, compassion, joy, depending, you see. Quindi l'amore, la compassione, la gioia a seconda di quello che viene fuori. Yeah. So, you know, some people, wasn't it the man who shot President, who was the fellow with the beard? Abraham Lincoln. Yeah, Abraham. The man who shot Abraham Lincoln, Wilkes, he ended up in a doctor's surgery. This is how I remember the story. The doctor tended to him and helped his wound, but when they found this doctor, they stuck him in jail. For many years he was in a jail. Because he saved this assassin. Quando la persona che ha assassinato Abraham Lincoln è stato curato da un medico, praticamente che gli ha curato la ferita, questo medico è poi stato messo in prigione per diversi anni. So this was highly unjust. È altamente ingiusto. You should have let him die, basically. No! No, the doctor should never have been in hospital. Should never have been in prison for helping somebody. People expected. Oh, I see. Oh, excuse me. Yes, absolutely. Excuse me. Quindi ci si aspettava che questo medico non aiutasse l'assassino, che lo lasciasse morire praticamente. Yes, or report it. I don't know what went wrong, but anyway, they jailed him for doing it. It was crazy. Comunque l'hanno messo in prigione per aver curato questa persona che aveva sparato. Or helped him, yeah. Shall I go on? Yeah. There's another one on metta. About metta. Is it only a means of concentration, as some Vipassana practitioners put it, or does it flow naturally only after entering samadhi, as others say? In my experience, both visions are true, and it is also an act of will, inducing the mind to open in the direction of good. Yeah, there's if you practice metta as jhana, it creates beautiful states of mind within you. Okay. Traduco, allora mi traduco. Oh, I'm sorry, yes, excuse me. Quindi, praticamente riguarda la metta come metodo di concentrazione, come dicono alcuni della Vipassana, oppure come uno stato mentale che fluisce naturalmente solo quando si entra il samadhi. Nell'esperienza di questa persona entrambe le cose sono vere, ma è anche un atto di volontà che induce la mente di aprirsi nella direzione del bene. E Bhante risponde che metta può essere anche un modo per entrare in stati di jhana. And what happens is the person has this lovely mental state, but they're not dealing with the underlying psychological problems, you see. E quindi cosa succede? Che la persona sviluppa questi bellissimi stati mentali legati appunto alla gentilezza amorevole, però è come se non affrontasse i problemi psicologici sottostanti. This is for somebody who doesn't practice Vipassana. Questa è una persona che non fa Vipassana. And so they will seem very loving, very kind, maybe have a very attractive charisma. Quindi sembreranno molto amorevoli, molto gentili, avranno una sorta di fascino, un carisma. But if you catch them unawares, ma se li cogliete inaspettatamente, so for instance you stand on their foot. Per esempio, gli ho stato un piede. Suddenly you see how much love they really have. Vi accorgerete di quanto amore hanno veramente. When it's practiced with vipassana, then there is the purification, and there is, of course, the development of goodwill. Ma quando si pratica con la vipassana, c'è la purificazione e c'è anche lo sviluppo della benevolenza. Mm. But frankly, in my own understanding, in my own practice, developing love through an action, through a relationship, is much more grounding. Ma secondo me sviluppare l'amore attraverso una relazione è molto più radicato. Mm, it's more grounding, you know? Sì, sì. Solido. Mm, it's much more solid because it's coming out of real relationship, you see. Perché deriva da una vera relazione. Mm, it's all right thinking of this neutral person, you see. Quindi va bene pensare a questa persona neutrale. Mm. But it's all up here in the head. Ma però è una cosa che rimane tutta qui nella testa. Mm. So if you can do all of them, all well and good. But in ordinary daily life, just this practice of goodwill towards everybody we meet is will develop it beautifully. You can do all of it, meaning both as a samatha practice. You could do the whole thing, yes. Sì. But quindi, volendo si può fare tutto. Se riuscite, tanto meglio. Farlo come una pratica di concentrazione, di samatha e altro. Però se riuscite a sviluppare questo atteggiamento di amorevolezza nella vostra vita quotidiana, questo ovviamente avrà maggiori benefici. Mm. Yeah. You're quite welcome to make comments. Can you say that? Potete fare dei commenti se volete. But my feeling is that having eaten, most people are falling asleep. Avendo mangiato, la maggior parte di voi sta dormendo. My feeling is that my voice is becoming more and more distant. I'm kidding. There's one last one about Metta. Ha detto di terminare la seduta con Metta. Va bene anche iniziare con Metta? So you said to finish with Metta. Is it okay also to start with Metta? Yes. One thing that you might want to develop is an affectionate awareness. Quello che volete sviluppare è una consapevolezza affettiva. Ah, so even when you're practicing here, there's a sort of an affection in the looking. Quindi anche quando praticate qui c'è una sorta di affetto nell'osservare. Especially where there's a difficult emotion or pain. Soprattutto quando c'è un'emozione difficile o un dolore. And this undermines fear, aversion. E questo va a intaccare la paura, l'avversione. Yeah. Yeah. Beginning and end, it doesn't matter. Quindi non è importante se all'inizio o alla fine. Okay, there's one on equanimity. This is a bit connected, and also what you said on love, because it says, hai detto che l'equanimità permette all'amore di non diventare attaccamento, eccetera. Ma cos'è? È un sentimento neutro? Equanimity. So you said it allows love not to become attachment. So what is equanimity? Is it a neutral feeling or state of mind? No, it's that underlying. It's that underlying awareness which it's the underlying calmness which allows awareness to be present. Quindi è quella calma sottostante che permette la consapevolezza di essere presente. Mm, and so one sees when a particular mental state is moving towards its near enemy, as it's called. E quindi e permette di vedere quando uno stato mentale si sta avvicinando a quello che viene chiamato suo nemico prossimo. Yeah. So when you are in a joyful situation, so long as you're aware of you're joyful and there's an awareness of it, a calmness underneath it, it won't go tumbling into an over excitement. Per esempio, se sei in una situazione di gioia, c'è questa consapevolezza di sottofondo che vi permette di impedirvi di trasformarlo in eccitazione. At first, you know, these practices seem forced. All'inizio queste pratiche sembrano un po' forzate. Ah, so you're doing metta, but you don't feel it. Quindi fate metta, ma non la sentite. You're being joyful, but you're afraid it might go into excitement, so you're aware of this calmness. Quindi siete, avete gioia, ma non volete che diventi ipereccitazione, quindi c'è questa consapevolezza di fondo. Ah. So, but that's the training. Ma questo è un addestramento. Ah, and then at some point it becomes spontaneous. A un certo punto diventa spontaneo. It's just the way we are. È proprio, siamo fatti così. That's where Buddhists can be seen as not living life to the fullest, because they're holding back the concern about getting into excitement. Can you talk a bit more about this excitement? È per questo che i buddhisti a volte sono visti come delle persone che si trattengono un po', proprio perché non si lasciano andare, diciamo, in inglese c'è questo termine excitement, che in italiano è più come l'emozionarsi, diciamo, no? Yeah. E quindi chiede se può dire ancora qualcosa su questo. I used to belong to the Peace Fellowship. Una volta io appartenevo a quello che chiamava The Buddhist Peace Fellowship. La comunione di pace buddista, metterla così. And we used to go to the anti-nuclear marches. Quindi partecipavamo alle marce antinucleari. We had a big banner, you see. Avevamo un grande cartellone. And we were of the conceit that we were bringing peace to the anti-nuclear movement. Quindi noi avevamo questa presunzione di portare pace, no? Un atteggiamento pacifico al movimento contro il nucleare. Ah, because they were getting so angry, you see. Perché loro si stavano arrabbiando. It's this difference, isn't it, between aggression and what's the other word? Aggression and assertiveness. Thank you. Quindi c'è questa differenza tra l'essere aggressivi e l'essere assertivi. There are people who will say, for instance, that there is a righteous anger. There is a righteous anger. Righteous means righteous. Righteous. Quindi ci sono persone che diranno che c'è il sangha giusto, diciamo, yeah. Quello che ha la presunzione di essere nel giusto. Yeah, you see. And that's a concept that doesn't exist in the Buddha's teachings. Ma questo è un concetto che non esiste negli insegnamenti del Buddha. And I think you find that when you say something from the ground of equanimity and it's coming from a deep commitment, it has much more effect than when you're shouting and being angry with it. E quindi voi scoprirete che quando dite una cosa sulla base, con una base di equanimità e c'è una calma sottostante, questo avrà un effetto molto più importante che non dire la stessa cosa però urlando, per esempio. It's actually, if you think about it, the anger is a sign of weakness. Se ci pensate, la rabbia è un segno di debolezza. Because anger is always arising out of fear of the other. Perché la rabbia sorge sempre dalla paura dell'altro. No? It's been a long day. the excitement. Yeah. The excitement was after how to guard against falling into too much excitement but still enjoying life. Ah. Quindi sì, la domanda è come evitare di andare in un iper eccitazione, diciamo, ma godersi comunque la vita. Well, I think it's a case of us knowing ourselves, of knowing when the joy is becoming this frothy, excited thing. Si tratta di conoscere noi stessi, cioè di sapere quando è che la nostra gioia si trasforma in questo stato così molto spumeggiante di eccitazione. And then to be able to say, whoa, and then just calm down, calm down. Ci diciamo, siamo arrivati al limite e ci calmiamo. Yeah, there's no specific dividing line. It's, you know. Non c'è proprio una linea divisoria. The main thing is finding things which you want, and the other things wishy-washy. Without interest, dead, yeah, frozen, boring. Yeah. Forse è proprio questo eccitamento quello che vogliamo, e il resto sembra una cosa molto così blanda, o una cosa noiosa. That's right. That's something quite. No, you see, no, but that's, no, the problem is that, yes, that seems to be something fantastic, but what we don't see is the aftermath. Il fatto è che sì, questo può sembrare una cosa fantastica, ma quello che non vediamo è quello che viene dopo. Remember, as soon as you have attachment, you have certain consequences. Ricordatevi che appena avete attaccamento, questo porta delle conseguenze. Ah. The consequence of addiction, compulsive behavior. Quindi dipendenze, comportamenti compulsivi. You're always seeking excitement. Cercate sempre l'eccitazione. And the same object will not give you the same excitement, so you're constantly in search of the next excitement. E lo stesso oggetto non vi darà la stessa eccitazione, quindi siete continuamente alla ricerca di nuove emozioni. When you're talking about a relationship, let's say in a couple, whatever kind of couple it might be, not two people looking for, you know, new excitements outside that relationship. And it could be a passionate relationship, it could be a very strong relationship, it could be a very committed relationship. And yet, perhaps, from your point of view, you might say, well, this is a bit too much. Hold your passion. But it could be quite positive if it's, you know, even with a passion, you can still operate within rules. It doesn't mean that you're going to go and flood around all over the place. Sì, lo mette in relazione a un rapporto di coppia, per esempio. Ci può essere molta passione, emozione in un rapporto di coppia, però anche un impegno reciproco, e questo può sembrare dall'esterno come se ci fosse troppo emozione, troppa passione, ma anche nella passione ci possono essere, dici, delle regole, cioè non è necessariamente detto che se c'è la passione quindi questi andranno, questo degenererà in qualcos'altro. No, this is what I meant when I said at times there's romance, etc., etc. There's nothing, these things aren't evil. E questo è quello che ho detto prima, ho detto che ci può essere il romanticismo, queste cose non sono sbagliate, non sono il male, non sono il male, sì. Yeah, but if you're going to rate your relationship by how much passion there is in it, you're just going to get exhausted. Ma se tu giudicherai la tua relazione sulla base di quanta passione c'è, allora ti esaurirai o ti sarai esausto. Yeah. One can only experiment with these things. Uno può solo sperimentare con queste cose. Sì. Okay, maybe we can go to the more technical things. Montes, ci puoi parlare del Rupa Dhatu e dei quattro dhyana del regno della forma? There's a translation. Can you speak to us about Rupa Dhatu and the four dhyanas? Dhyanas. Here it says Diana. Yeah, D-H-Y. No, it's the same. Oh, yeah, right. No, it's, yes, it's John. Okay, it's another spelling of it. The rupa in the four basic jhanas, you always have to have an object. Quindi nei quattro jhana, the material, di base, devi sempre avere un oggetto. So you start with the breath or a circle of color. Si comincia col respiro, un cerchio di colore. Or a light. O una luce. Yeah. So that's your That's where you begin, you see. È da lì che si comincia. And then very slowly a mental image is built up. E lentamente si crea una immagine mentale. And then that becomes your object, not the. E quello diventa il suo oggetto. But it's still known as a rupa, as something which is being created. Ma è comunque ancora considerato rupa, cioè qualcosa che viene creato. When that disappears and the mind is totally equanimous, then that's called the arupa jhana. Quando quello sparisce, la mente è totalmente equanime, allora si entra nel arupa jhana. So there's no mental object in arupa jhana. Non c'è nessun oggetto mentale negli arupa jhana. Yeah. Is that who asked the question? Is that? No. Sì? Che cosa c'è? There's a boundaryless space. Uno spazio senza confini. Wherever you go, you find consciousness. E ovunque tu vada, trovi coscienza. You're aware of that whole space. E sei consapevole di quello spazio. And there's nothing in it. Non c'è nulla. There's no object. There's nothing in it. Non c'è oggetto. Non c'è nulla. And there's not even a perception. E non c'è neanche la percezione. It's you could say it's when the mind has completely stopped. Mind heart has completely stopped. Quando la mente cuore è completamente assorbita. In assorbimento. Yeah, I shouldn't say completely stopped because there's one above that which is called the ending of all feeling and perception. Quindi non assorbita ma fermata, quando la mente e il cuore si fermano. Però in realtà ce n'è uno ancora superiore che è un jhana che è chiamato il jhana in cui non c'è né la sensazione né la percezione. It's called Nirodha, which is extinction. Si chiama Nirodha, che è l'estinzione. This is only supposedly experienced by people who are non-returners and arahats. Questo può essere sperimentato solo da coloro che sono o dei non ritornanti, diciamo, o degli arahant. Yeah. So there's four levels of sanctity. Yes, this was one of the questions. Una delle domande era proprio i livelli di illuminazione. So there's four levels. Sono quattro livelli. And the first level, the person intuits Nibbana. Al primo livello la persona intuisce Nibbana. The Buddha talks like it's a flash of lightning. È come un lampo. Flash of lightning. Sì, come un fulmine. Yeah. So the person sees everything, but really, you know, like it's not enough. It's not held. It's a flash. Quindi la persona vede tutto, però non riesce a trattenerlo, proprio come un flash. When a person experiences that, they no longer have doubt in the Buddha's teachings. Quando una persona fa questo tipo di esperienza, non ha più nessun dubbio sugli insegnamenti del Buddha. They have some inkling that they are not the body and mind. Hanno un po' di hanno un'intuizione che non sono il corpo e la mente. Yeah, there's a sort of a little break there. Insomma, qualcosa che si spezza. And they no longer believe that rites and rituals have anything to do with the direct spiritual path. E hanno capiscono che i riti e i rituali non hanno niente a che vedere col sentiero spirituale. This is more to do, remember, with standing in the Ganges and your karma is washed away by the water. E questo è un po' come stare nel fiume Gange e aspettare che l'acqua purifichi il tuo karma. It's wrong rites and rituals. Ah, ecco. Questo era un esempio di un rituale sbagliato, errato, no? Cioè l'idea sbagliata che questo rituale possa portare alla liberazione. So remember, these levels are attained through the insight into one of these three characteristics of impermanence, dukkha and not self. Sì. Quindi questi livelli di illuminazione si raggiungono attraverso la comprensione di queste tre caratteristiche universali, queste, l'impermanenza, l'insofferenza, diciamo, il non sé, la sofferenza, il non sé. When the person goes deeper, their desire and aversion is lessened. quando una persona va più in profondità, diminuisce l'avversione e il desiderio. In the first level, it said that a person would have to be reborn 7 times to complete the process. Quando si raggiunge il primo livello si dice che la persona deve rinascere 7 volte prima di completare il processo. But after the second level only the once more, so it's called a once return. Il secondo livello invece si dice che la persona deve tornare una sola volta, quindi si chiama colui che torna una sola volta. Mm. In the third level all sensual aversion and fear has gone. Al terzo livello tutta l'avversione e la paura sparisce. Sensuale. In other words, this world does not attract them anymore. In altre parole, questo mondo non li attira più. So they're not reborn into this realm again. E quindi non rinascono più in questo ambito, in questa sfera di esistenza. And the person who is completely liberated, the arahat. Poi c'è l'arahat che è completamente liberato. He gets rid of the last 5 fetters, as they're called, chains. Allora si libera degli ultimi 5 di quelli che si sono chiamati i legami, cioè le catene. So it's attachment to these jhanas that we talked about, the rupa and arupa jhana. Quindi l'attaccamento a questi jhana, il jhana materiale e non materiale. All restlessness is gone. Se ne va tutta l'irrequietezza. Restlessness here means any movement in the mind caused by one of the defilements. E qui si intende per irrequietezza qualunque movimento nella mente che è causato da uno degli inquinanti mentali. Conceit, I am. Ecco, questa presunzione del io sono. And finally, all ignorance. E infine tutta l'ignoranza. So that's how the Buddha rates it. E quindi è così che il Buddha li mette in categorie, diciamo, i livelli. The first level is a flash of lightning, he says. Il primo livello è questo lampo. In the second level it's a full starlit night. Il secondo è una notte stellata. In the third level it's a full moon night. Terzo livello è una notte di luna piena. And in the fourth level it's the sun at midday. E il quarto livello è il sole a mezzogiorno. So this is the Buddha again using metaphors to explain. Di nuovo qui c'è il Buddha che usa delle metafore per spiegare. Okay. Okay. The first level is like Satori in Zen. You also know the word Kensho? Kensho. You know that word? Kensho? No. This is Soto Zen. He's the word Kensho. Presumably. I that's what I understand, but... Joseph Goldstein, some of you will know, he actually practiced both in the Theravada tradition like this, and also in the Tibetan tradition of Dzogchen. Which is, the same as Zen. And he said he had the same experience, similar experience. So this process seems to be, general. As soon as you start meditating, it seems that this process just happens. Quello che si corrisponde un po' a Satori nello Zen, Marco diceva che secondo lui può essere, e poi ha citato Goldstein che ha praticato sia nella Vipassana che nello Dzogchen, che è molto simile allo Zen, e ha avuto esperienze simili, quindi pare che questo processo sia un processo comune riconosciuto nelle diversi approcci, nelle diverse scuole. But I would like to say it's not the only way one can become liberated. Ma però vorrei dire che non è l'unico modo in cui una persona può giungere alla liberazione. Sì. Okay, another one. Okay, back on the practice. How much practice is it advisable to do at home? Quanta pratica è consigliabile fare a casa? There's another one similar. Is it better, è preferibile fare una seduta di 90 minuti o due da 45 minuti? Is it better to have one sit, 90 minutes sit, or two 45 minutes sit? I think two more minutes. Yeah. So how much in a day? Or how much at home? Well, the usual advice is some meditation in the morning and some in the evening. Quindi il consiglio generale di farne un po' al mattino, un po' la sera. And the general advice is somewhere around 40 minutes. Di solito si parla più o meno intorno ai 40 minuti. But if you can do a little more, all the better. Se ne potete fare un po' di più, meglio. Definitely better to do two good sits rather than one long sit falling asleep all the time. Sicuramente è meglio fare due buone sedute piuttosto che una lunga che vi fa addormentare continuamente. Yeah. Okay, then there's this question that says, ho questa impressione, proprio qui e ora che dormo, 2 ore per notte, mi sento uno straccio. Vado male in bagno, ho la prostata ingrossata. Ho più possibilità di conoscere? Non c'è il punto interrogativo, ma immagino sia una domanda. He says, this is my impression. In the here and now, when I'm sleeping 2 hours per night, I feel like a rag. I have problems going to the bathroom. My prostate is swollen. Mm. Do I have more chances of knowing? Difficult. Difficult. It's in. Come on. It's Zen. It's Zen. Yeah, go on. Eh? What is a Zen koan? Well, one tries one's best within a given situation, that's all you can say. Quello che possiamo dire è che uno fa del proprio meglio in una data situazione. Chi pratica regolarmente la Vipassana può andare incontro ad alcuni problemi di tipo fisico o psichico? The person who practices Vipassana regularly, can this person have physical or psychic problems? Oh, physical or psychic problems? Psychological. Well, here's a psychic. Psychic and psychic. I think you mean psychological. Yeah. Well, the physical problem should only come if you're not sitting properly. Problemi fisici possono derivare dal fatto che uno non si siede nel modo giusto. The only psychic problems that I've come across is when this Kundalini comes up. Invece problemi psichici che ho incontrato quando sorge questa Kundalini. So one just has to be a little careful and just not practice so much when you feel that sort of energy coming. E quindi uno deve solo stare più attento e praticamente non praticare così tanto quando sente che sta sorgendo quel tipo di energia. It manifests as normally as it's difficult to say, really. As sometimes as where the chakras are, some pain, fiery feelings, energy that you feel you can't control. Quindi questo Kundalini si manifesta soprattutto nei punti dei chakra, dove c'è magari può esserci del dolore, oppure una sensazione di fuoco, oppure si sente un'energia nel corpo che non si riesce a controllare. So it's not emotional, it's not an emotional energy. Non è un'energia emotiva. Seems to be a sort of life energy of some sort. Sembra una sorta di energia vitale di qualche tipo. So when you feel that, you know, just calm it down. Don't quando meditate sentite, so much. Quando la sentite, semplicemente cercate di calmarla e non meditate tanto. But maybe it's not entirely advisable to practice Vipassana without a master on your own. Quindi non è, then all kinds of funny things can happen. Non è consigliabile quindi praticare la Vipassana da soli senza un insegnante, perché possono capitare queste cose. Yeah, I think there's a danger for some people to do that on their own. Sì, penso che per alcune persone potrebbe esserci questo pericolo se lo fanno da soli. You can have out of body experiences which, if you don't have a context for it, the person might think that they're losing their minds, and see things like that. Ci potrebbero avere delle esperienze di coscienza fuori dal corpo, diciamo, che se una persona non riesce a metterle in un contesto giusto, quindi potrebbe spaventarsi. Did you say it could be? They could. Well, they could. Yes, they. If they're out of context, you think. Yeah, well, they can think they're psychologically ill, you know. Se possono pensare che ci sia qualcosa che non va, che siano. Then they go. They go to a psychiatrist who doesn't have any spiritual knowledge, and so they give them drugs. Vanno da uno psicologo o uno psichiatra che non ha nessuna conoscenza spirituale e magari gli danno delle medicine, dei farmaci. This is known as a spiritual emergency. Questo è conosciuto come un'emergenza spirituale. Some people have when they experience something they can't understand, it shakes their confidence, it destabilizes them. Quando hanno un'esperienza che non riescono a capire, questo li destabilizza, perdono la loro fiducia. So you'll see in the literature it's known as a spiritual emergency. Queste nella letteratura insomma si chiamano emergenze spirituali. More or less on the same theme. Yeah. What are demons and how to deal with them? Cosa sono i demoni e come affrontarli? Well, this is a matter of personal belief, really, as to whether demons actually exist or not. È una questione di credenza personale, no? Credere che esistano o meno. If you mean by demons beings, malevolent beings, malevolent entities, as the literature talks about. Se voi vi dicesse, cosa si riferisce a demoni come a delle entità malvagie? Then in Buddhism you would offer metta. Allora, nel buddismo il modo di trattarli è di offrire loro metta. Yeah, you wouldn't, do this business. Non fareste un esorcismo. No, you wouldn't do that. You would invite them to stay, but not to disturb you. Li invitereste a rimanere, ma non disturbarvi. And usually in the literature they do. They just carry on with their business. Secondo la letteratura questo funziona, cioè loro vanno avanti con le loro cose, senza interferire. Shall I tell you the story of my poltergeist? Ah, so you. Huh? I was just thinking, there was somebody telling about the poltergeist, yeah. I didn't remember who. Raccontato la storia del mio poltergeist. Have you got enough energy to listen to my story about poltergeist? Avete abbastanza energia per ascoltare la mia storia? Well, I was in Sri Lanka meditating in my kuti. Stavo meditando nel mio kuti nello Sri Lanka. And my kuti was here, and there was a walking passage here with walls. You know, walk up and down. A camminata. Quindi c'era il mio kuti, un certo luogo, e poi uno come dire una passerella. Un corridoio. Sì, un corridoio per la camminata. And so my kuti is here. Here's the corridor, and here was my bathroom. Quindi c'era il mio kuti, poi c'era questo corridoio e il bagno. So I go to bed at 10:00. Vado a letto alle 10:00. And the light goes on in the kuti, in the bagno. E si accende la luce del bagno. So I get up, I'm a little bit sleepy, I turn it off and I come back to bed. Quindi sono un po' assonnato, ma mi alzo, vado lì, la spengo e torno nel letto. And I say to myself, no, the switch is faulty on the off, not the on. Quindi io però dico a me stesso, ma l'interruttore però era sul acceso, non spento. It goes on again, I run out towards the bathroom. Si accende di nuovo, quindi io corro verso il bagno. I can hear footsteps going away in the distance. E sento dei passi che si allontanano a distanza. Okay, I turn it off, I go back to bed. Va bene, la spengo e torno nel letto. Next morning, I say to the monks, there's a hooligan. Allora, il giorno dopo dico ai monaci, ah, ma c'è un hooligan. Scusate, ho sbagliato la traduzione. Quindi prima lui ha detto, deve esserci un malfunzionamento nella luce. So I say to the monks, there's a hooligan. Allora poi appunto dopo quest'altra esperienza va dai monaci e dice c'è un hooligan. So they look at me with blank faces because they don't have hooligans. E mi guardano con sguardi smarriti perché lì non ci sono gli hooligan. Hooligan sono quei fanatici sportivi, teppista. And the footsteps went off towards the village, you see. E questi passi andavano verso il villaggio. So, a few days on, 10 days if I remember rightly, dopo 10 giorni, we had a caretaker. Avevamo una persona, come si può dire, un tipo un livello, un assistente. A night watchman, he was a night watchman. Era un guardiano di notte. Because we'd had a theft in the monastery, so they employed this elderly Hindu man to be a night watchman. Perché c'era stato un furto nel monastero, allora avevano assunto questo induista che potesse fare da guardia. And I was fast asleep, maybe 11 o'clock, deep sleep. Quindi ero un sonno profondo, forse le 11 di sera. So he bangs on the door. E quindi mi bussa alla porta. I sort of half wake up, say something and go back to sleep. Mi sveglio a metà e poi mi giro e torno a dormire. The next minute, he's banging again. Poi dopo, di nuovo mi bussa. So I get up and go with him. E quindi mi alzo e vado con lui. And the bathroom's completely wet. He's turned off the shower, the light's on. E c'è la luce accesa, il bagno allagato, con la doccia aperta. So next morning I say to the monks, there must be a hooligan. Ci deve essere un vandalo. Because he didn't do it. Perché sicuramente non l'ha fatto lui. Anyway, how can I explain? Over the next week or two, I became more and more paranoid. Ma dopo, nell'arco della settimana successiva, sono diventato completamente paranoico. I had the feeling that this guy, that this was a psychopath. Avevo la sensazione che questa persona fosse uno psicotico. And I began locking. Uno psicopatico. Yeah. And I began closing the window. I would always keep them open. When I went to bed, I'd close the windows. Cominciato a chiudere le finestre. And I even went to bed with a piece of wood just in case I needed. E sono andavo a letto anche con un bastone in caso avessi bisogno. And then I was putting some mosquito netting on these windows on the wall. Poi un giorno stavo mettendo queste reti, le zanzariere sulle finestre per appunto controllare le zanzare. And I had the distinct feeling of somebody looking at me through the window. E ho avuto questa sensazione molto ben distinta di qualcuno che mi stava guardando attraverso la finestra. Okay. A little while on, I used to get up at 2 o'clock in the morning. Un po' più in là, ho cominciato a svegliarmi alle 2 del mattino. I always remember this, you see. Me lo ricorderò sempre. There was a tapping on the window. C'era un pizzichio, diciamo, alla finestra. That's all. And I woke up in terror. E mi sono svegliato terrorizzato. And I heard the footsteps. E ho sentito i passi. I said to the monks. I'm going to be murdered. So I came back from breakfast that morning. Quella mattina sono tornata da colazione. And I said to myself, this is ridiculous. E ho detto a me stessa, questa è una cosa ridicola. I mean, you know, I'm trying to meditate here, and I'm living in terror of being attacked by this hooligan. Sto cercando di meditare e sto vivendo nel terrore di essere attaccato da questo hooligan. So I said to myself, well, the antidote is metta. Allora io mi sono detto, ma l'antidoto è la metta. So I went out and stood at the back of the bathroom. Sono uscito, mi sono messo in piedi dietro il bagno. Where I heard the footsteps go. Dove sentivo che andavano i passi. And by the way, I had noticed that there were no footprints because it was sand. E tra l'altro io avevo notato che non c'erano impronte perché c'era la sabbia. But this little detail had escaped me, you see. Ma questo dettaglio mi era sfuggito. So I'm facing the village. Sto guardando il villaggio. And I'm chanting the Metta Sutta that we do in the morning. E recito il Metta Sutta, quello che facciamo al mattino. All I can say is I saw him. Tutto quello che posso dire è che l'ho visto. And his eyes were boring through me with tremendous angry hatred. E i suoi occhi mi guardavano con un odio tremendo. To my surprise, I said, "Oh, it's you." Con mia sorpresa, io mi sono ritrovato a dire, "Ah, sei tu." And I said, "Look," I said, "You can stay here." I said, "Don't, you know?" I said, "Just don't mess my meditation up." Dai, puoi restare qui. L'importante è che non disturbi la mia meditazione. So then I went back and started to meditate. Sono tornato, ho cominciato a meditare. All I can say is that the next day, when I came back from breakfast, the light over the kuti was different. L'unica cosa che posso dire è che la mattina dopo, quando sono tornato nel mio kuti dopo la colazione, la luce era diversa. The evening before I thought maybe I should go and chant again. La sera prima avevo pensato forse devo andare di nuovo a recitare. But I said, don't push your luck. Non sfidare la fortuna. And he went. E se n'è andato. Ma che roba. So I know by my experience that entities do exist. Quindi io so per mia diretta esperienza che queste entità esistono. How many people here have seen a ghost or what you would say? Quante persone qui dentro hanno visto un fantasma? Nessuno. No. Usually there's always one or two. Maybe they don't believe in ghosts. Yeah, not so much. Anyway, that's my little story. That's a little story. So metta is the antidote. Metta is the antidote. It's just the opposite as in Christianity. Well, I suppose Christianity has its own understanding of evil is different, I suppose. Quindi la metta è l'antidoto che Lino dice il contrario del cristianesimo, però Dante dice il cristianesimo ha un modo diverso di. Yes, I mean it's God against the devil, you know, it's a different. Per fare le cose, Dio contro il diavolo. Whereas in Buddhism it's just an evil being. Invece nel buddismo è solo un essere malvagio. Just a being. Yeah, there isn't evil in the universe. Non c'è il male nell'universo. And there isn't goodness there. E non c'è neanche il bene. Yeah, it's all to do with consciousness. So. Ha tutto a che vedere con la coscienza. So. Ok, shall we go on? Yeah. One little question. Going back to the figure of Mara. Sometimes it is like addressed as the evil one. That's right. But so then you give it an identification to Mara. Sì, quindi tornando a guardare. Lei. No, dicevo, riferendoci alla figura di Mara che usualmente è indicato come il male, la personificazione del male. Adesso però si dà una forma di identificazione. Well, Mara means death. Mara significa la morte. And he's a god in charge of a heaven. È un dio, quindi è incaricato, come dire, è incaricato di un paradiso, come si chiama? A type of heaven. Un tipo di paradiso, una sfera celeste, diciamo. Sfera celeste. And he sometimes appears in a ferocious form. A volte appare in una forma feroce. But basically, he's the enticer. He's the one who wants you to enjoy the sensual life. Però fondamentalmente è quello che ti, come dire, che ti attracts you. Sì, che ti tenta. Vuole che tu goda dei piaceri sensoriali. Yeah. So then he becomes a mythical figure. E poi diventa una figura mitica, mitologica. For instance, when the Buddha is attacked by Mara just before his enlightenment, that's obviously a metaphor for all his defilements coming up. Quando il Buddha è tentato da Mara prima della sua illuminazione, questa è una chiara metafora di tutti i suoi inquinanti mentali che vengono fuori, vengono ad attaccare. And just as the arrows, as they came towards him, turned into flowers. Poi c'è questa storia, no, di queste le frecce che quando si avvicinano a lui poi si trasformano in fiori. So the anger or whatever came up in him, you know, transformed into love and their opposite. Così, allo stesso modo la rabbia si è trasformata nel suo opposto, cioè nell'amore, e così via. E l'ultima tentazione? The last temptation? The last temptation. The last temptation was doubt. The great doubt. L'ultima tentazione era il dubbio. Because Mara said to him, "Who are you? Who are you to seek this enlightenment?" Perché Mara gli ha chiesto, ma tu chi sei? Chi sei tu che cerchi questa liberazione? And the Buddha touched the earth, and the earth goddess arose. To ground himself. Tocca la terra, no? Si vede nell'estate, per radicarsi, e quindi c'è la madre terra, la dea. And the earth goddess came. Arrivò la dea della terra. And replied to Mara, it is because of his perfection of generosity through his past life. E grazie alla perfezione della sua generosità nelle sue vite precedenti. In other words, he wasn't doing it just for himself, but for the benefit of all beings. In altre parole, non aveva fatto solo per se stesso, ma a beneficio di tutti gli esseri. So it wasn't a selfish search. Non era una ricerca, quindi, egoista. Any indication how long he was sitting? 6 hours, it said. Seduto 6 ore. Should we work up to that? 40 minutes. Questo è il nostro obiettivo. There's no guarantee. Okay, so go on. Come si pone il buddismo Theravada rispetto ad altri sentieri di illuminazione che si definiscono più rapidi o diretti? How does Theravada Buddhism, say, relate to those other paths of illumination that define themselves as faster or more direct? Well, what can you say? Cosa si può dire? What other paths are there? Well, and this is what I was saying, I'm not so sure they're different paths. They're different techniques. Non credo che ci siano dei sentieri diversi, ci saranno tecniche diverse. But he says at that moment, when we're talking about Zen and this one, what I want to say is that these are not the only paths. What other paths? There's a path of love, which the Buddha seems to, he's not delineated it completely, but it's there within the scriptures. It's the path of the heart. Per esempio, allora, quali altri sentieri possono esserci? C'è il sentiero dell'amore, che Buddha non delinea chiaramente, però è presente negli insegnamenti, nelle scritture. There's a group of monks who've spent the season, the rainy season, practicing metta. C'è un gruppo di monaci che aveva passato tutta la stagione della pioggia praticando la metta. And when the Buddha met them, he could see that, you know, they were on the point of enlightenment, of awakening, but for attachment to the body. E il Buddha, quando poi li incontrò, vide che loro erano proprio sul punto di raggiungere l'illuminazione, se non fosse per il loro attaccamento al corpo. So he gave them that exercise we were doing about the repugnant nature of the body. E quindi diede loro quell'esercizio che abbiamo fatto anche noi sulla ripugnanza del corpo. And they became liberated. E così raggiunsero la liberazione. Mm. But this business of the Tantra is the aeroplane and the Mahayana is the motor car and the Theravada is a donkey is just the usual prejudice that arises when some new form arises. The past form has got to be inferior. Però questa idea che il Tantra è l'aereo, il Mahayana è la macchina e il Theravada è un asino, questa è un'idea che viene fuori tutte le volte che c'è qualcosa di nuovo che in qualche modo sente di dover soppiantare quello che c'è stato prima, o che è meglio di quello che c'è stato prima. Can you put the differences into a nutshell? I don't really know that much about Tibetan Buddhism as such. But the Mahayana one is supposedly faster because of this commitment to save all beings. And therefore, it's not a selfish path. L'altra cosa si poteva spiegare la differenza in breve. Infatti dice che non conosce molto il buddismo tibetano, però il Mahayana si dice che sia più veloce per il fatto che hanno questo impegno a liberare tutti gli esseri, o a trovare la propria liberazione una volta che siano liberati tutti gli esseri. Takes more time, how can it be faster? Does anybody know that? No. And the Tantra, of course, is the use of imagery to overcome defilements. So you image Mara, for instance, you know, and you overcome your fear of fear by imaging fear. Things like that. Nel Tantra invece si usano le immagini per superare i propri difetti mentali. Per esempio si immagina Mara per superare la propria paura cioè si immagina la paura impersonificata in Mara. And much in the same as Christianity, where you have the figure of Christ and you give that figure certain properties, you want to become like Christ. È un po' come nel cristianesimo, quando tu ti immagini o stai davanti all'immagine del Cristo e in qualche modo lo vuoi emulare, cioè vuoi identificarti con le qualità di quell'immagine. So you have a vision of a Buddha, a type of Buddha, the compassionate Buddha, and you bring it into yourself, you image it within yourself. Quindi nel Tantra si immagina il Buddha, un Buddha particolare, quello della compassione, e poi è come se tu, attraverso l'immaginazione, lo portassi dentro di te. Quindi c'è un'identificazione praticamente con quell'immagine. These are meant to be very powerful. Quindi pare che queste siano pratiche molto potenti. But you'll have to ask somebody else that. I'm not really. Dovreste chiedere a qualcun altro. Loneliness vs. solitude. Are there any references in the scriptures? In Theravada scriptures, is our world seen as a dual? This is one of the questions. quindi questa solitudine, che non siamo riusciti a tradurre l'altra volta, come la solitudine negativa e quella positiva. Ci sono delle referenze, dei riferimenti nelle scritture? The Buddha doesn't really talk about loneliness as such. Non parla in realtà della solitudine come tale. The directions in the scripture are more general. Le indicazioni nelle scritture sono più generali. But he definitely urges people to seek solitude. Ma sicuramente invita le persone a cercare questa solitudine positiva, stare soli con se stessi. He says we ought to be like rhinoceroses. Dobbiamo essere come dei rinoceronti. It seemingly rhinoceros likes to live on its own. A quanto pare al rinoceronte piace vivere da solo. Yeah, that's all he said. But he definitely encourages people to get away from society, away from the crowd, be by themselves, and in this way you get to know yourself. Sicuramente però incoraggia le persone a allontanarsi dalla folla, dalla società, di stare da soli, perché in questo modo si conoscono meglio. So. Is that it? No. How many more? That's it. No, this is just one. It's two. Even I'm beginning to do. Three. I'm doing all the talking. Well, this is one you already answered. The difference between Hinayana, Mayana, yeah, Tantra, okay, and the Nasha. Okay, so there are three more. Okay. One is this. In Theravada scriptures, is our world seen as a delusion made real by social cultural agreement? Does Nama Rupa refer to it? Nama, names given to objects. Therefore, names created the objects, or not? Did you understand the question? A little bit. I mean, the first question, actually, is in Theravada there is this concept of the word being a delusion, because I think in Zen Buddhism we have this idea of this word, this reality being a delusion. Yeah. And I assume that in this case, I don't know, Nama, Rupa. Nama means names, Rupa means things. So I was wondering if it refers to the fact that being the word illusion, so we give things names, and that's a social agreement, actually does nothing. We call things and they come to existence. I was wondering, is this true in Theravada Buddhism, yeah, or it's my idea? Okay, complicato. La prima parte dice, se nel buddismo Theravada si considera questa realtà come un'illusione, perché ho letto che nello Zen c'è questa idea che, le storie delle Zen che si leggono, dove si parla appunto di questo mondo come un'illusione. Un'illusione direi collettiva, no? Che tutti condividiamo. E poi, siccome c'è questo termine Namarupa, che significa varie cose, ma Nama tradotto alla lettera dal pali significa nomi, quindi nomi e le cose, allora mi chiedevo se nelle scritture della Vada c'è questo concetto, esiste questo concetto di illusione, e che quindi l'illusione è mantenuta da un accordo, diciamo, socioculturale tra tutti noi, che una cosa la chiamiamo con un certo nome. E quindi, però, se non esiste niente, siamo noi che facciamo esistere le cose dandole un nome. Non so se sono stato chiaro. Se avete visto il film Matrix, it's very late. Inside the movie Matrix. Well, no, first of all, in Buddhist psychology, remember, we don't experience the world as an object. It's always mind-made. Allora, innanzitutto, nella psicologia buddista, noi non sperimentiamo mai il mondo come un oggetto. È sempre una creazione della mente. Yeah, this is the Western conceit, we can say, that we think that when we see a tree, we actually see that tree as it is. Questa è un po' una presunzione, diciamo, occidentale del credere che noi quando vediamo un albero, noi riteniamo che è quell'albero. Yeah. But actually, the tree that we see is manufactured by our brain and mind. In realtà l'albero che noi vediamo è costruito dalla nostra mente, dal nostro cervello. And the nama rupa, the rupa is the body. Rupa è il corpo. But although they translate nama as the word, that's what it, what can we say, that is base meaning, but it actually means the mind. Mm. Anche se a volte traducono nama come parola, questo è il suo significato di base, però quello che significa in realtà la mente. Yeah. So Nibbana and Samsara, this onward going world, are one and the same place depending on your relationship to the world that you are actually manufacturing. Quindi il samsara, cioè questa ripetizione, diciamo, delle proprie esistenze, e il nibbana in realtà sono lo stesso mondo e differiscono solo sulla base della propria relazione con esso, che è praticamente creato da noi stessi, creato dalla nostra mente. Sì. Sì. Vabbè. No. Sì, no, it's also linked to the previous question, because I was thinking about the words loneliness and solitude, that in Italian we have only one. So we don't have the corresponding space in mind. I see. We don't have, because we don't know how to call it. Well, I can't personally believe that, but that's what I said the other night, that Italians don't experience solitude because they don't have a word for it. See? Quindi era un po' legato alla domanda precedente sul fatto che gli italiani non hanno questa parola per una solitudine positiva, diciamo, e quindi è come se, non esistendo la parola, non esiste l'esperienza, o viceversa, non esistendo l'esperienza non c'è bisogno della parola. Ed è quello che diceva Dante quando ha detto, beh, allora vuol dire che gli italiani non hanno l'esperienza della solitudine. Maybe, what about quietude? Is that a word? No. Quietude vuol dire stato no? di quiete. Quiete. There must be, because there are monastic orders, I mean, it's about solitude, it's about quiet. Sì, ci deve essere una parola in italiano, perché con tutti gli ordini monastici che ci sono, Io credo che, se è un'idea mia, mi sembra che in italiano solitudine abbia sempre questo senso un po' di, che uno non ci sta bene, quando uno dice solitudine. Ti dà sempre quest'idea un po' di... Francesco la cercava, la solitudine ci stava bene. Sì, ma dico proprio la parola, solitudine. Non ti dà quest'idea di... C'è un'altra parola. Solitudo, solo la beatitudine. Dipende sempre dal tuo modo di relazionarti. Isolamento. Dipende sempre dal tuo modo di relazionarti. Perché se tu ti relazioni bene con il mondo, puoi stare anche da solo, perché il mondo è con te. Ma se tu vuoi stare lontano dal mondo, allora la solitudine è negativa. No, interessante, cioè, capire se è una mia idea o è un'idea di tutti quelli che parlano in italiano. Questo volevo anche dire. Direi che andavate l'utente. La parola è cambiato nei anni... proprio del tempo, proprio di San Francesco, proprio che ci sarebbe stato forse l'uso della parola, che in questi anni, 500 anni, è cambiato anche di più. Proprio l'uso, change in the meaning. Yeah, could be a change in the meaning. Okay, there are last two questions on the more on the technique. Okay. They should be easier. One says, se appaiono sensazioni dolorose, tu dici di stare con la sensazione nella sensazione. Cosa significa? Puoi fare un esempio? When you say to be with the sensation in the sensation, or feeling in feeling, yeah. What do you mean? This is quoting the Buddha himself in the scripture. Questo è quello che dice proprio il Buddha nelle scritture. Vedana nu vedana asati, to feel, to experience the feeling in the feeling. So he's basically trying to direct us to the feeling which is there before you give it a name. Quindi quando dice stare con la sensazione nella sensazione, lui ci invita a stare con la sensazione prima che noi gli diamo un nome. Sì, so when we feel pain, that's one level. Quindi quando diciamo dolore, questo è un livello. But when you go into the pain, there's heat, there's pressure. Ma quando entri nel dolore c'è calore, c'è pressione. Ah, so this is vedana nu vedana pasati. E quello è quindi vedana nu vedana pasati. Yes. Don't be impressed by my Pali. Non siate particolarmente colpiti dal mio Pali. I only know some kernel phrases. Okay. The other says counting to keep the mind on the breathing. Is this banned from Vipassana? Is it only for Samatha practice? To what extent is a hybrid encouraged? Il fatto di contare i respiri è possibile, cioè è una cosa vietata dalla Vipassana, è solo per la pratica di Samatha, o può esserci un ibrido? Well, it is basically a Samatha practice because it's not interested in investigating. Sì, è fondamentalmente una pratica di Samatha perché non c'è interesse nell'investigare. Yeah, so you count to 10, if you lose it you go back to 1, you keep counting. So it's a way of really centering the attention. Si conta fino a 10, quando si perde si ricomincia a contare, è un modo per centrare l'attenzione. And then once the attention is settled, of course, you don't count anymore. Una volta che però l'attenzione è stabilizzata non si conta più. So it's a preparatory exercise. Quindi è un esercizio preparatorio. Yeah. Can be used, no problem. Però si può usare, senza problemi. Ecco! Prego. So it's now almost 9:30. Sono già quasi le 9:30. So what I suggest is we sit silently for a little while and